America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, vi sto parlando dall'Arthur Ashe Stadium, il campo centrale del grande torneo di tennis di New York, gli Open di New York, US Open a Flushing Meadows. Le voci che sentite di sottofondo sono quelle del match di Serena Williams, Venus Williams. Devo dire un match entusiasmante, perché è il 27esimo scontro fra queste due sorelle. Ma volevo farvi questo racconto, anche se molti di voi avranno già visto a questo punto le immagini in televisione, perché volevo darvi un po' l'atmosfera di come si vive questo torneo di tennis qui a New York, perché non è solo un evento sportivo, è anche un evento sociale, un evento pubblico. Nel pubblico abbiamo visto Kim Kardashian, abbiamo visto Oprah Winfrey, abbiamo visto atleti, attori. Ecco, avete sentito, in questo momento c'è stato molto divertente, c'è stato un pubblico che ha alzato la voce, perché hanno inquadrato, ecco, state sentendo, sentite, hanno inquadrato Donald Trump. Anche Donald Trump è venuto a vedersi questi quarti di finale. Devo dire, la cosa mi colpisce perché? Beh, perché insomma Trump lo immaginiamo coinvolto in una campagna elettorale comunque difficile e impegnativa, eppure riesce a trovare il tempo per venire allo stadio, per venire qui alla partita. Bene, ecco, rientro in studio. Ho preferito darvi il buongiorno in questa presa diretta che ho registrato ieri sera al Arthur Ashe Stadium, perché mi sembrava così divertente, carino, darvi questa atmosfera di quello che è una partita a tennis agli US Open. Beh, vi devo raccontare di un piccolo scoop, perché se Donald Trump era a pochi box dal mio, a un certo punto l'ho incontrato in corridoio, c'erano anche un paio di colleghi, e gli ho fatto qualche domanda soprattutto su Berlusconi. Sentiamo, perché è la prima volta che esprime un giudizio sul nostro ex presidente del Consiglio, e al quale è stato paragonato varie volte. Sentiamo. Mr. Trump, can you just say hi to our audience? I'm with an Italian. Hello, folks. Radio. I love Italy. Good. I love Italy. You know, they say you are the next Berlusconi. Ah, watch you back here, darling. Ooh, thank we you. Don't want to lose you. Are you the next Berlusconi? Well, we're going to see what happens, right? Or rather, do you like Berlusconi? I do like him. He's a nice man. I got to go. Okay. Ecco, avete sentito questo breve scambio di battute col candidato repubblicano che vorrebbe diventare presidente degli Stati Uniti, e c'è un momento simpatico quando la collega che sta camminando all'indietro, perché alla fine eravamo in tre, non c'erano televisioni americane, c'erano soltanto due colleghe italiane della televisione, Liana Faccioli e Silvia Berzoni. A un certo punto la Faccioli sta camminando indietro e Trump, lo sentite, lì dice: stai attenta che stai per sbattere contro la porta, non vorrei avere dei guai. Ma le domande che faccio a Donald Trump sono molto dirette su Berlusconi. Intanto un saluto, porta un saluto a voi ascoltatori, I love Italy, dice, e saluto a tutti. E poi il commento è chiaro: Berlusconi mi piace molto, I love him, dice, è un uomo per bene. Quando una collega gli chiede se lui fosse come Berlusconi, Trump risponde: vedremo, vedremo che succederà. Come dire, per essere come lui, per essere come Berlusconi, devo prima vincere le elezioni, cosa che finora aveva sempre dato per scontata. Ma torniamo all'audio in presa diretta dallo stadio Arthur Ashe. Sentiamo. Quest'anno gli Open sono particolarmente interessanti e importanti per noi, perché le nostre atlete italiane, dalla Pennetta, Roberta Vinci, a Sara, Flavia, che sono arrivate nella semifinale del doppio, e naturalmente Roberta Vinci, che entra definitivamente nella storia del tennis italiano perché ha conquistato l'ingresso nelle semifinali dell'Open qui a New York con questa vittoria sulla francese Cristina Mladenovic. Ha vinto 6-3, 5-7, 6-4 in 2 ore e 32 minuti. E in questo stadio devo dire, gran quantità di marchi: Westin, Chase, IBM, Mount Sinai, Polo, Ralph Lauren, Mercedes-Benz, JP Morgan, Citizen, Xerox, Time Warner, insomma potrei continuare. Non vedo nomi italiani, non abbiamo visto finora nomi italiani. Ebbene, quest'anno invece c'è un nome italiano per la prima volta fra gli sponsor di questi Open, e cioè la Lavazza. Trovato anche qui nel pubblico, fra le varie celebrità, come ho detto, Oprah Winfrey, che più ne ha più ne metta, proprio Giuseppe Lavazza. Buongiorno Lavazza, anzi buonasera. Buonasera carissimo. Senta, ma le devo chiedere una cosa. avevamo Donald Trump qui a pochi boots da noi, a 20 metri da noi. La colpisce che un candidato alle elezioni per la presidenza degli Stati Uniti venga a vedersi i quarti di finale di tennis? Io ho sempre trovato la politica un mondo a parte, difficilissimo da decifrare, quindi già trovo complicato decifrare il mondo politico italiano, ma non mi spingo a fare operazioni analoghe su quello americano. Forse si sente, diciamo, molto sicuro e quindi vuole dimostrare che tutto sommato può prendersi dei momenti di pausa e venire a vedere su una partita. Ecco, devo dire che la capigliatura vista da vicino era addirittura perfetta, perché in genere abbiamo questa idea di capelli cotonati, invece aveva un caschetto. La colpisce questo caschetto così perfetto? Mi colpisce che uno tra i pochi è presenti qua con la giacca e la cravatta, quindi forse tra i pochi, però ecco, dica, ce n'è un altro. C'è un altro che mi sta intervistando. Esatto, confessiamo che anch'io sono arrivato e già. Però la capigliatura è diversa. Direi che più naturale. Senta, ma parliamo della vostra presenza qui agli Open. Come mai avete deciso? Come mai Lavazza ha deciso di sponsorizzare gli Open? Per dargli un po' di grinta, un po' di caffè per svegliarli un pochino? Beh, qui avevano bisogno di un caffè buono e quindi ci stiamo pensando noi. Gli Stati Uniti sono un paese molto importante per il nostro sviluppo strategico e quindi poter presidiare un evento come questo, che riunisce un sacco di gente a New York, è un happening molto importante, ci permette di servire tantissimi caffè e di avvicinare. Ma quindi voi avete una piattaforma qua, avete un punto vendita, noi abbiamo, servite il caffè? Noi abbiamo il nostro caffè in tutti i punti di distribuzione e di consumo di questi due stadi, quindi diciamo abbiamo una copertura totale per quanto riguarda il caffè, sia all'interno per esempio degli Skybox, ma abbiamo due coffee shop Lavazza che sono stati creati precisamente per questa cosa. Quindi dobbiamo immaginare che Donald Trump ha assaggiato il Lavazza. Sono sicuro, si è preso un caffè nostro al 100%. Ecco, e mi dica, qual è la sensazione di essere qua nello stesso anno in cui le ragazze italiane stanno facendo così bene, arrivando in semifinale? Insomma, è un trionfo, diciamo, per l'Italia, perché per noi essere arrivati a questi livelli è già molto molto importante. Sono delle combattenti, diciamo che anche noi come azienda amiamo combattere, quindi è un tipo d'Italia che ha voglia di emergere e quindi insomma ci si spreme per cercare di riuscire ad arrivare lontano. Bene, ecco, per chiudere vorrei darvi un piccolo background di quello che è successo in questo Art War Stadium, perché a un certo punto sono entrato dentro il box di Trump e devo dire, all'inizio tutto liscio, fino a quando non si è presentata la guardia del corpo, quella guardia del corpo terribile che abbiamo visto in televisione, che riesce a menare dei fendenti alquanto intimidatori. E ricostruisco questo piccolo momento appunto con la Faccioli e con Berzoni, che erano con me e che naturalmente apprezzano quello che stanno facendo le nostre atlete qui agli US Open. Sentiamo. Sempre stadio Arthur Ashe, sempre presa diretta. Vi ho raccontato le ragazze italiane, sono con due ragazze italiane, sono con Liliana Faccioli Vintozzi di Sky, con Silvia Berzoni di CNBC. Allora, queste due ragazze sono forse un po' più vecchie di voi anche, diciamolo, ma arrivano in semifinale, almeno una in semifinale, poi il doppio in semifinale, vedremo come butta nel pomeriggio per l'altra italiana. Che sensazione vi dà di vedere queste due ragazze qui a New York? Un grande orgoglio, non è soltanto spirito nazionalistico, però insomma delle volte anche il Davide contro Golia, sono bravissime, vediamo come andranno nei prossimi giorni. Silvia. Incarnano un po' lo spirito, bisogna essere giovani e tenaci per farcela a New York e loro ce l'hanno fatta agli US Open. Insieme, diciamolo, raccontiamolo, siamo riusciti a un certo punto a entrare nel boot privato del signor Trump, sì o no? Assolutamente sì. Ecco. E allora, con una grande opera di mascheramento generale. Con mascheramento generale, devo dire che a un certo punto però voi mi avete anche lasciato solo. Ci abbiamo mandato in ama scoperta. Allora, dopo però l'abbiamo beccato, abbiamo anche chiacchierato con lui. Allora, beh, un'emozione beccare il candidato, sì o no? È una grande soddisfazione. Mostra anche che bisogna essere un po' creativi per fare il nostro mestiere e tenaci. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!